big chick. She, a neat chick, but she's what makes me tick. Mama, hey, hey, hey, clickety click, a slick chick. Hey, hey, hey, hey. The high heels on for the baby blues hat. Hey, hey, hey, hey. Man, oh man, what a sack. Hey, hey, hey, hey. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, hey, hey, hey, hey. It was a night. Hey, hey, hey, hey. Everybody stopped, we're on a dime to look. Hey, hey, hey, hey. Even my heart, my heart got a shook. Hey, hey, hey, hey. She's my clickety click, I'll stick it. Hey, hey, hey, hey. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick, but she what makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick? Yeah, yeah. My, my, my, my, my, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Click click click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy yeah little chick. Yeah, yeah. I don't yeah you know she's slick. Yeah, yeah. È 04 su Radio Wombat, Slick Chick, una nuova puntata quest'oggi, mercoledì 11 aprile del 2018, ovviamente, che come si diceva lo scorso mercoledì, questa puntata sarà la seconda della la seconda parte della puntata dedicata al sole, perché Perché ce n'è bisogno, perché non so se vi è capitato di mettere il naso fuori dalle vostre wombat caverne, ma cioè, qui ci avevano promesso la primavera, ci avevano promesso un minimo di calduccino, di tepore, mica uno pretende chissà che, ma insomma un minimo, niente, di nuovo inverno, di nuovo fa freddo. E vabbè, che si deve fare? È tutto molto deprimente. Io se vedo un altro po' di pioggia penso mi butto sotto una macchina. E quindi, perché ci voglio credere, seconda parte dedicata al sole, inseguendolo, diciamo, questo sole. Allora, eravamo rimasti a... beh, avevamo fatto sentire un bel po' di musica riguardo a questo poetico oggetto. In realtà quasi tutto... tutti i brani che vi avevo fatto sentire la scorsa settimana parlavano del sole un po' in senso lato, è un po' la luce, il sole che è ridente oppure non lo è per nulla, insomma di fatto erano un po' tutte metafore. Adesso invece si arriva, beh non solo, anche nella scaletta di oggi ci saranno un bel po' di metafore e un po' di soli visti in senso figurato, ma si arriva anche a parlare del sole come astro, come un qualcosa di, insomma, con una sua solidità, ecco. E in particolare uno dei primi gruppi che lo fa, non in ordine temporale ma nella mia scaletta sì, è i They Might Be Giants, che ci hanno abituato a insegnarci un sacco di cose sugli argomenti più disparati, ci insegnano a contare, ci insegnano l'alfabeto, ci insegnano un po' tutto, e The Might Be Giants, beati quei bambini che hanno imparato con loro le cose importanti della vita, e anche col sole ci insegnano un po' di cosette, ma vedremo pressoché tutte sbagliate. In particolare... il pezzo che ci parla del sole non sarebbe l'unico dei The Might Be Giants, ma quello che ho scelto io è Why Does the Sun Shine? E domanda e la risposta che fa sempre parte della canzone è The Sun is a Mess of Incandescent Gas, un brano del 1993 che poi noi ci andremo a sentire nella versione live. I The Might Be Giants, come vi dicevo, a parte essere un gruppo educativo, sono anche un gruppo pieno di bizzarrie. Per esempio, quando Linnell si ruppe il polso in un incidente con la bicicletta e no, come se tutto ciò non bastasse, l'appartamento invece di un altro membro di Flashburg fu scassinato e tutte le chitarre furono rubate, i The Might Be Giants non si persero d'animo e misero su quello che loro chiamarono il sistema Dial a Song, che praticamente consisteva in una segreteria telefonica collegata ad un nastro con le loro canzoni più famose. Tanto loro non potevano evidentemente suonarle, e allora se tu comunque sentivi la mancanza dei Might Be Giants, anziché andare su YouTube, che al tempo non c'era, meno male, tu potevi chiamare la loro segreteria telefonica e fare usare una sorta di jukebox personalizzato con solo i pezzi dei Might Be Giants. Ma tornando invece proprio al pezzo, Why Does the Sunshine è la cover della canzone del 1959, che quindi poi è una cover spiccicata, è pressoché identica, nonostante che poi loro ci abbiano messo chitarre elettriche e tutt'altro, ma insomma la melodia, il testo è proprio quello, è ancora quello del 59. In realtà il sole non è una massa di gas incandescente, che si sappia, ma una massa di plasma. Questo nel 59 ancora non è che si era proprio capito e si poteva asserire il contrario, ma invece ora, dall'alto del nostro meraviglioso e mai abbastanza lodato progresso scientifico, ovviamente sono ironica, adesso nel 2018 possiamo asserire che effettivamente non si tratta di gas incandescente, ma una massa di plasma, appunto. Un plasma è il quarto stato della materia, viene definito così, ed è fondamentalmente un gas ionizzato. Io ovviamente non so di cosa vi sto parlando, cioè vi sto sciorinando un po' quello che sono andata a leggermi, penso che non aveste dubbi su in merito, ma se qualcuno per caso che non è abituato a conoscermi pensa che io ne sappia di queste cose, no, non ne so assolutamente niente, come vi accorgerete poi conoscendo meglio questa trasmissione. Ma io mi fido dell'internet e queste informazioni le ho trovate lì, e quindi noi tutti sappiamo che l'internet è la verità, e quindi fidatevi. In quanto tale, ovvero in quanto gas ionizzato, il plasma è considerato appunto come quarto stato della materia, che si distingue quindi dal solido, dal liquido e l'aeriforme. E il termine ionizzato indica che una frazione significativamente grande di elettroni è stata strappata dai rispettivi atomi. Mentre sulla Terra la presenza del plasma è relativamente rara, fanno eccezione, attenzione, attenzione, i fulmini e le aurore boreali, nell'universo in realtà il plasma costituisce più del 99% della materia conosciuta dall'uomo. Si trovano infatti sotto forma di plasma il Sole, appunto, le stelle e le nebulose. Però bisogna precisare una cosa che raramente gli scienziati sono umili, ma in questo caso lo sono, perché c'è necessità di precisare che comunque sia la materia conosciuta dall'essere umano ad oggi rappresenta solo una piccola percentuale, pari circa al 5% dell'intero contenuto di materia ed energia dell'universo. Il 95% di questa materia è costituita da quella che viene chiamata energia oscura e materia oscura, ovvero delle forme di energia e materia che non riusciamo a rilevare direttamente attraverso le loro emissioni elettromagnetiche, di cui quindi non sappiamo quasi niente. Infine, un altro esempio di plasma è rappresentato dallo strato di gas ionizzato ed estremamente caldo che si forma sullo scudo termico dei veicoli spaziali al rientro dell'atmosfera, cosa che a voi non ve ne potrà fregare di meno, ma a me mi ha sempre molto affascinato, perché da piccola ho visto in un museo, secondo me poteva essere a Londra, ma non me lo ricordo manco più, uno di questi veicoli spaziali tornati da una missione ci avrà avuto non so quanti decenni, e però effettivamente faceva un certo effetto. A me mi ha sempre inquietato molto questa cosa. E sì, c'era evidentemente un po' di materia strana che in qualche modo emanava delle strane sensazioni, o forse era la mia immaginazione di bambina. D'altra parte, probabilmente anche adesso avrei la stessa reazione. Basta, questo era il mio poco sapere che vi potevo elargire riguardo al sole in quanto appunto palla di non incandescente, di gas incandescente, come ci dicono quegli ingenuotti dei Might Be Giants, ma bensì di plasma. E a questo punto sentiamoci la scorrettissima canzone. Well, here's an educational song, and it's called Why Does the Sun Shine? The sun is a mass of incandescent gas, a gigantic nuclear furnace, where hydrogen is built into helium at a temperature of millions of degrees. The sun is hot, the sun is not a place where we could live, but here on Earth there'd be no life without the light it gives. We need its light, we need its heat, we need its energy. Without the sun, without a doubt, there'd be no you and me. The sun is a mass of incandescent gas, a gigantic nuclear furnace, where hydrogen is built into helium at a temperature of millions of degrees. The sun is hot. The sun is so hot that everything on it is a gas. Aluminum, copper, iron, and many others. The sun is large. If the sun were hollow, a million Earths would fit inside. And yet, it is only a medium-sized star. The sun is far away. It's about 93 million miles away. And that's why it looks so small. But even when it's out of sight, the sun shines night and day. We need its heat, we need its light, the sunlight that we see. The sunlight comes from our own sun's atomic energy. Scientists have found that the sun is a huge atom-smashing machine. The heat and light of the sun are caused by the nuclear reaction between hydrogen, nitrogen, carbon, and helium. The sun is a mass of incandescent gas, a gigantic nuclear furnace, where hydrogen is built into helium at a temperature of millions of degrees. The sun, ladies and gentlemen. Thanks a lot. And cold and clean, white and cold. E questi invece con le loro solite pirule vorticose erano i Motörhead, e dall'album Sacrifice del 1995 il brano era Out of the Sun, quindi proprio fuori dal sole, niente, lontani, via, fuori, un po' come questa settimana che è passata e si spera che la prossima sia meglio. Allora, proseguiamo nel viaggio appunto riguardo al sole, intorno a questo astro, e arriviamo ai Pogs. I Pogs in particolare che sono delle personcine un po' allegre e felici, probabilmente perché vivono in un posto dove di sole non è che proprio ce n'è tantissimo, allora se lo devono immaginare. Allora ci parlano di The Sunny Side of the Street, ovvero il lato al sole della strada, il lato assolato. L'album è Hell's Ditch del 1990 e la canzone parla proprio esattamente di quello che immaginate, ovvero del proprio il sole, cioè quella parte quando tu cammini per strada e a un certo punto fa un po' freddino, cioè il sole, un bel sole, dici vabbè, ma perché devo continuare a stare su questo marciapiede che è quello brutto con l'ombra e che mi sto raffreddando, e allora scelgo di attraversare la strada, andare dall'altro lato e camminare nel marciapiede quello assolato, il lato appunto dove splende il sole. E di questo parla in termini abbastanza precisi, perché parla il punto di vista di un ragazzo, diciamo, che gira il mondo ed è molto contento della sua vita e dei suoi viaggi, che vede un po' come ogni posto che lui visita lo vede un po' come appunto il lato assolato della strada, cioè un po' così, ma beato lui, che si deve dire. E quindi fondamentalmente parla un po' di questo. Il disco Hell's Ditch, fra l'altro, è prodotto da Joe Strummer e vabbè, niente, un po' si sente. D'altra parte Joe Strummer era molto innamorato dei Pogs, beh, come dargli torto d'altra parte. All I can remember now is a kiss without no shoes. So I saw the train and I got it, went off for it. I lost the family, now walking on the sunny side of the street. Stand over bodies in Bombay, trying to make it to the USA. Ended up in that park, up on a roof with nothing at all. I knew that day I was gonna stay right where I am. Ora, il bastone e la carota, siccome adesso vi ho fatto divertire, vi ho fatto credere che tutto sia bello e ridente come una canzone di Pogues, adesso vi beccate Nick Drake, bam, così, per sprofondarvi nella disperazione, così, a gratis. Nick Drake, perché anche lui ha avuto da ridire sul sole, e ovviamente non ne ha parlato bene, perché non è che vi aspettavate. Nick Drake, Things Behind the Sun, quindi le cose dietro al sole, Pink Moon del 1972, ed è il terzo e ultimo album di Nick Drake. E, ad eccezione di alcune, si sente ogni tanto un po' di pianoforte nella prima traccia. L'unico strumento presente nell'album è una chitarra acustica, quella meravigliosa chitarra suonata da Nick Drake. Non è un caso, perché negli precedenti album gli era stato un po' imposto dai discografici e dal manager di aggiungere degli strumenti alla propria chitarra, perché rendevano il suono un po' meno scarno, un po' meno triste, più pieno, insomma tutta una serie di cose. Fra l'altro non è che i due dischi effettivamente erano brutti, ci sono anche aggiunte di altri strumenti che rendono alcune canzoni meravigliose, ma Nick Drake voleva qualcosa di proprio, per l'appunto, scarno, desolante e devastante, per cui la sua chitarrina gli bastava e decise che no, basta, i primi due album vi ho dato retta, il terzo si fa come dico io, e decise che appunto principalmente, ma insomma fondamentalmente in tutto l'album suona soltanto la sua chitarra. Secondo il tecnico del suono John Wood, tutte le canzoni furono eseguite da Nick Drake dal vivo, cantando e suonando insieme, chiaramente, quindi non due registrazioni separate, una per la voce e una per la chitarra, ma tutto insieme, in presa diretta e quasi sempre in una sola take, appunto, quindi boom, al volo. E evidentemente perché Nick Drake non aveva grossi ripensamenti da fare, aveva tutto molto chiaro in testa. La registrazione dell'intero album infatti durò appena due notti, cosa che a chiunque è mai capitato di registrare qualsiasi cosa, insomma, si sa quanto questa cosa è abbastanza impressionante. Hanno detto di Pink Moon, tra l'altro, una frasetta un po' così che rende bene, però secondo me, l'esito estremo di un'asciutta disperazione di fronte alla vita. Please beware of them that stare, they'll only smile to see while you time away. And once you've seen what they've been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Look around, you find the ground is not so far from where you are. Don't be too wise. For down below they never grow, they're always tired, and charms are hired from out of their eyes. Never a surprise. Take your time and you'll be fine. Say a prayer for people that will live on the throne. And if you see what's meant to be, don't name the day or try to say it happened before. Don't be shy, you learn to fly and see the sun and day is done. If only you see just what you are beneath a star that came to say one rainy day in autumn for free. Just be what you be. Please beware of them that stare. They'll only smile to see you while you die. Once you've seen what they have been to, when the earth just won't seem worth a night or a day. Oh yeah, what I say. Open up the broken cup, let goodly sin sunshine in. Yes, that's the day. And open wide the hymns you hide, you find renown where people from. Things that you say, say what you say about the farmers and the fun and the things behind the sun and the people around your head who say everything's been said. Movement in your brain sends you out into the rain. Ma in effetti non so cos'altro si potrebbe aggiungere a Nick Drake e la sua chitarra, effettivamente. Things Behind the Sun, da appunto Pink Moon, questo ricchissimo album, l'ultimo peraltro di Nick Drake. A questo punto dobbiamo arrivare a un gruppo che non potevo non mettere, forse dall'inizio della storia di Slick Chick l'ho messo un'altra volta, effettivamente ho cercato di evitarlo fino ad adesso, ma adesso devo fare i Pink Floyd. E vi toccano Pink Floyd, Set the Controls for the Earth of the Sun. Sì, perché a un certo punto, infatti, come dicevamo all'inizio, il sole è qualcosa anche di concreto, ecco, non soltanto una palla fricchettona che ci illumina. L'album è A Source Full of Secrets del 1968 ed è l'ultimo album in cui suona Syd Barrett, e cioè nel senso in cui ancora Syd Barrett è dentro i Pink Floyd, il primo album con la chitarra di David Gilmour. Quindi secondo un'intervista con David Gilmour, Set the Controls for the Earth of the Sun, questo brano che andiamo ora ad ascoltarci, contiene alcune parti per chitarra suonata sia da Gilmour sia da Syd Barrett. Quindi di fatto è un po', insieme a Corporal Clegg, l'unica canzone nella storia dei Pink Floyd in cui hanno suonato tutti e cinque gli storici componenti. E vabbè, questo potrebbe non fregarcene niente, e in effetti probabilmente non ce ne può fregare di meno, ma tant'è, non è che si trovassero tante informazioni su questo brano e quindi vi beccate quelle che ho trovato. Inoltre Roger Waters ha ammesso che le parole di Set Controls for the Earth of the Sun sono tratte da un libro di poesie cinesi del periodo della dinastia Tang. Questo forse è un tantino più interessante, ma vabbè, comunque è così, vi basti il barocco, la barocca musica dei Pink Floyd, più che le mie inutili parole. Thank you. Wombat, Slick Chick, i nostri social Wombat, wombat.noblogs.org e la casella di posta, posta Wombat, @insiberia.net. Vi ricordo anche che sul nostro sito, appunto, wombat.noblogs.org, potete dare un'occhiata a tutto il palinsesto con anche le nuove news. Si è aggiunta intanto una prima nuova trasmissione che è in punta di pedali, a cui diamo un caloroso saluto, che è il martedì. E poi però tenetevi pronti, perché insomma nei prossimi periodi avremo nuove trasmissioni che si affacceranno al nostro palinsesto, e quindi insomma, se non tenete d'occhio il palinsesto e il nostro sito, ve le perdete, e questo sarebbe gravissimo e imperdonabile. Proseguiamo nella nostra scaletta di stasera dedicata al sole con un pezzo della Sun Records, perché ci stava troppo. Sun Records, etichetta discografica strafamosa e straimportante, di cui abbiamo già parlato in modo direi abbastanza esaustivo in una puntata interamente dedicata alle Sun Sessions di Elvis, di lui. Però non potevo appunto non prendere a pretesto il sole per infilarci qualche altra produzione Sun, e ci sarebbe veramente da stare ore a sceglierle, e in questo caso io ho scelto Jack Hurts, che rappresenta secondo me molto bene il tipico suono rockabilly della Sun. In particolare questo è un brano del 1956 e si intitola Slow Down. Be the wheels, I'll be the spokes, baby. When you start to turn it, my poor heart will start to burn it. Slow down, baby. Slow down, baby. Sole si trova a circa metà della propria sequenza principale. Sappiatelo, tenetevi pronti. Al termine di questo periodo di stabilità, tra circa 5 miliardi di anni, il Sole entrerà in una fase di forte instabilità che prende il nome di gigante rossa. Nel momento in cui l'idrogeno nel nucleo sarà totalmente convertito in elio, gli strati immediatamente superiori subiranno un collasso dovuto alla scomparsa della pressione di radiazione delle reazioni termonucleari. Il collasso determinerà un incremento termico fino al raggiungimento di temperature tali da innescare la fusione dell'idrogeno negli strati superiori, che provocheranno l'espansione della stella fino ad oltre l'orbita di Mercurio. L'espansione causerà di conseguenza un raffreddamento del gas. Ci siete fin qui? Ok, sarà un casino, ma vabbè. Quando anche l'idrogeno dello strato superiore al nucleo sarà totalmente convertito in elio, quindi dopo poche decine di milioni di anni, si avrà un nuovo collasso che determinerà un aumento della temperatura del nucleo di elio, e a questa temperatura si innescherà repentinamente la fusione dell'elio in carbonio e ossigeno. La stella subirà quindi una riduzione delle proprie dimensioni, passando dal ramo delle giganti al ramo orizzontale del diagramma HR, che chissà. A causa delle elevatissime temperature del nucleo, la fusione dell'elio si esaurirà però in breve tempo, diciamo qualche decina di milioni di anni, niente direi, e i prodotti di fusione, non impiegabili in nuovi cicli termonucleari a causa della piccola massa della stella, si accumuleranno inerti nel nucleo. Frattanto, venuta a mancare nuovamente la pressione di radiazioni che spingeva verso l'esterno, avverrà un altro ulteriore collasso che determinerà l'innesco della fusione dell'elio nel guscio che avvolge il nucleo e dell'idrogeno nello strato adesso immediatamente superiore. Ci siete anche qui? Bene. Queste nuove reazioni produrranno una quantità di energia talmente elevata da provocare una nuova espansione dell'astro, tutto un espandi, restringi, che raggiungerà così dimensioni circa 100 volte quelle attuali, tanto che la sua atmosfera arriverà ad inglobare molto probabilmente Venere. Incerto è invece, perché di Venere probabilmente siamo abbastanza sicuri, ma invece incerto è il destino della Terra. E qui uno dice, ok, ci sono possibilità, alla fine magari ci si fa. Ecco, allora, le possibilità sono queste. Alcuni astronomi ritengono che anche il nostro pianeta verrà inglobato dalla stella morente, ovvero dal Sole che sta morendo. Altri invece ipotizzano che il pianeta si salverà, perché la perdita di massa da parte della nostra stella farebbe allargare la sua orbita, che slitterebbe di conseguenza. Ma vabbè, sono degli ottimisti, così si sa che bisogna sempre raccontarsela un po'. Ma comunque il nostro pianeta sarà ovviamente inabitabile. E tutto ciò, ricapitoliamo, avverrà entro i prossimi 3,5 miliardi di anni. Quindi segnatevela, mettete questa data nella vostra scarceranda, nella vostra agenda, non lo so, quel che avete, nel vostro calendario. Sappiate, entro i prossimi 3,5 miliardi di anni, caput, datela a mangiare al gatto, salutate tutti, perché non ci si fa più. Entro 7,8 miliardi di anni, esaurito ogni processo termonucleare, il Sole rilascerà i suoi strati più esterni, che verranno spazzati via sotto forma di supervento. Ma bello, questa parola a me piace tantissimo, supervento, creando una nebulosa planetaria. Le parti più interne collasseranno e daranno origine a una nana bianca, circa delle dimensioni della Terra, che lentamente si raffredderà sino a diventare, nel corso di centinaia di miliardi di anni, una nana nera. Ecco, questo è quanto, spero che abbiate preso nota, sappiatelo, questo è quello che ci aspetta, e direi che quale migliore introduzione per questo pezzo del 1967 di Caterina Caselli, bene sì, Sole spento. Io credo a quello che vedo e vedo scuro intorno a me. Il bianco è bianco, il nero è nero, nessuno. nessuno mi imbroglia più. Io credo a quello che vedo e vedo il pianto negli occhi miei. Nemmeno una voce, nemmeno una luce, il sole non vive più. Sole spento, sulle labbra di chi mi amava. Illusione di un momento, sole spento solo per me. Bene, sì, Caterina Caselli ne sapeva un bel po' e quindi ha descritto anzitempo queste terribili vicende che capiteranno a questa nostra stella. Allora, The Rivieras sono il gruppo che eseguirà il prossimo pezzo. Detta così sembra un po' a Sanremo, perché non lo eseguirà dal vivo, va bene, è registrato, ok. Comunque il pezzo si intitola California Sun, perché d'altra parte, e già che non vi ho dato i Beach Boys, direi che vi dovete essere contenti. Pezzo ovviamente del 1964, e California Sun è stato composto da Harry Glover e Morris Levy. E originariamente era stato inciso dal 35enne cantautore di New Orleans, Joe Jones, e pubblicato poi su singolo dalla Roulette Records nell'inverno del 1961. Appunto l'aveva inizialmente Glover era un il compositore, quindi era il producer di una label, un'etichetta indipendente, ecco, mi mancavano le parole, chiamata Kink Records. E poi però divenne il fondatore e il proprietario anche della Roulette Records, con cui poi appunto registra questo brano, che però poi abbiamo saputo dopo da fonti abbastanza attendibili che in realtà era controllata completamente dalla mafia. Ebbene sì, ma questa versione è una versione che passò abbastanza in sordina, ma invece la versione più celebre di questa canzone è quella in stile surf, appunto, dei The Rivieras, ed è quella che poi ci andiamo ad ascoltare. I Rivieras sono un gruppo noto principalmente per questo brano, perché non è che ne hanno fatti tanti altri, anche perché si sono sciolti 2 anni dopo. E perché? Perché Fortson e Pennell, 2 dei membri del gruppo, lasciarono la band per entrare nei Marines poco dopo che avevano inciso proprio California Sun, e visti bei tempi se ne finirono ovviamente dove? In Vietnam. E del resto, probabilmente per caso, ma California Sun fa parte anche della colonna sonora di Good Morning Vietnam. E i Rivieras facevano parte del frat rock, che è quel termine che è stato inventato negli anni 80 dopo l'uscita di Animal House, e che viene usato per quella musica dei primi anni 60 tipica di quell'epoca, che poi è stata quella che viene chiamata la British Invasion, dove si cercavano questi ritmi semplici e ballabili tipicamente delle feste da college. Quell'epoca lì, ecco, quell'adolescenza americana spazzata poi via brutalmente dalla guerra in Vietnam. The short and the nights are long. Where they walk, and I'm a they twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. Well, I'm going out of west out on the coast, where the California girls are really the most. Where they walk, and I walk. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly, and I'll fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. In old Frisco, a pretty little chick wherever you go. And they walk, and I walk. They twist, and I twist. They shimmy, and I shimmy. They fly, and I fly. Well, they're out there having fun in that warm California sun. Yeah, they're out there having fun. Sì, chissà come lo rimpiangevano il sole della California quando se ne stavano in Vietnam a prendere tante batoste. Allora, invece, qui siamo abbastanza alla fine in realtà di questa trasmissione, che oggi è corsa via, è volata velocemente, perché d'altronde, come vi raccontavo l'altra volta, mi è toccato spezzarla in due, e quindi insomma questa era soltanto la seconda parte, il secondo pezzetto di una puntata che originariamente doveva essere unita, e quindi vi beccate una slick chick un po' in versione ridotta anche questo mercoledì, ma mi farò perdonare il mercoledì prossimo. Ci sono ancora due brani da ascoltare, quindi insomma non è assolutamente finita qui, anche perché sono dei bei pezzi, direi abbastanza godibili. Il primo, famosissimo, è Blister in the Sun dei Violent Femme, che non potevo non mettere. L'album ovviamente è l'omonimo, Violent Femme, del 1982. Violent Femme è il nome proprio del gruppo. Violent Femme viene preso, pare, da un'espressione slang di Milwaukee, che chiama così, cioè il nome con cui vengono chiamati i travestiti che si prostituiscono per le strade. E il brano Blister in the Sun, che tra l'altro è il primo pezzo proprio dell'album, cioè quello che apre l'album, Gordon Gano l'ha scritta quando aveva 19 anni, insomma, giusto per contestualizzare. E un po' tutti fanno saputelli con il testo di questo brano, dicono tutti di sapere di cosa parla, perché con questi grandi mani di cui si parla in continuazione di sesso e grandi mani, e tutti pensano di aver capito che fondamentalmente questo brano pare di masturbazione. Ma Gordon Gano, quel personaggino bizzarro che è Gordon Gano, ha negato assolutamente, categoricamente, dicendo che no, siete veramente dei malpensanti, in realtà si parla di abuso di droga, cioè che invece è proprio edificante, però sì, in realtà si tratta della sensazione che lui voleva descrivere quando si è strafatti di droga. E quindi questa è Blister in the Sun, ognuno ci veda un po' quel che ci vuole vedere. Anche di questo brano è bellissimo, non so se vi è mai capitato di vederlo, guardatevelo, con un presidente degli Stati Uniti gatto di peluche che rischia un attentato, veramente un video epocale, ecco. Siamo a fine, a questo punto vi ricordo gli appuntamenti di Slick Chick, sono la diretta tutti i mercoledì alle 21, quando mi potete ascoltare in diretta, del momento migliore per farlo secondo me, perché dai, la radio va supportata quando è in diretta, mica con i podcast che sono bravi tutti. E poi potete, se proprio non ci siate, ascoltare Slick Chick in replica il venerdì alle 23 e il sabato alle 17, oppure vi invito anche a, se soffrite di insonnia o se come me la notte siete più attivi che decisamente che la mattina, sappiate che alle 2 e alle 4, sì, se non vado errata, sì, tutti i giorni alle 2, alle 4 e anche alle 6 ci sono repliche random tratte dalle varie trasmissioni di Radio Wombat. Quindi se siete nottambuli e non sapete che fare, anche lì accendete Radio Wombat, che vi ricordo si può ascoltare in streaming dal sito wombat.noblogs.org oppure in AM, in onde medie, sulla frequenza 1359 se siete raggiunti dai nostri suoni. Basta, ci resta soltanto un pezzo da ascoltare, che ovviamente è un pezzo allegrotto e preso bene degli Swans, God Damn the Sun, perché basta parlare bene del sole, anche perché qui sta latitando e quindi basta parlarne bene. God Damn the Sun, l'album è The Burning World del 1989, qui versione cantata live da Michael Gira. Il testo, giusto per non lasciare niente all'immaginazione, è: God damn the sun, God damn the light is shining and this world it shows. Maledetto sole, maledetta luce che splende e mostra questo mondo. Con questo vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre su Slick Chick e su Radio Wombat. Ciao ciao! When we were young, we had no history, so nothing to lose. Meant we could choose what we wanted then, without any fear or thought of revenge. But then you grew old, and I lost my ambition, so I gained an addiction to drink and depression. They are mine, my only true friends, and I'll keep them with me to the very end. I choose not to remember, but I miss your arrogance, and I need your intelligence and your hate for authority. But now you're gone already today. They found you in Spain, face down in the street, with a bottle in your hand and a wild smile on your face, and a knife in your back. You died in a foreign land, and they found my letter curled up in your pocket, where I said I'd kill myself if she left me again. So now she's gone, and you're both in my mind. I got one thing to say before I'm drunk again. Goddamn the sun, goddamn the sun, goddamn anyone that says a kind word. Goddamn the sun, goddamn the sun, goddamn the light it shines in this world it shows. Thank you very much.